Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Salva Danaio. Salva Danaio oggi in diretta da Bari, dalla Fiera del Levante, dove porteremo oggi e domani con le nostre dirette i consueti temi di Salva Danaio, come sempre attenti a dare consigli concreti e utili a voi che ci ascoltate per risolvere i piccoli grandi problemi del risparmio e della vita quotidiana. Il caso di cui parliamo oggi però è inedito per certi versi, ha sempre a che fare con il risparmio di tempo e di denaro, e in particolare con la gestione della nostra auto, ma anche con un altro tema importante. Tantissimo, la sicurezza alla guida. Oggi parliamo del Telepass, un accessorio di cui molti italiani non possono fare a meno. Pensiamo a chi viaggia tutti i giorni in auto per lavoro, ma che tanti utilizzano anche se si spostano saltuariamente in autostrada. Pensiamo alle vacanze appena finite e ai tanti che si sono messi in viaggio per raggiungere località come quelle di questa bellissima regione che oggi ci ospita. Sembra una storia di fantasia, ma è reale e si è verificata in 7 casi, attualmente anche pervenuti al Sole 24 Ore, che ha lanciato il caso. Pare che un lotto di dispositivi Telepass sia a rischio scoppio. Parliamo naturalmente di una piccola esplosione dovuta ad un malfunzionamento delle batterie, che però può in ogni caso provocare danni alla vettura e soprattutto mettere in pericolo i viaggiatori, soprattutto se ovviamente lo scoppio avviene con l'auto in corsa. Nel mese di agosto Telepass ha inviato una lettera ai clienti interessati, avvisandoli e invitandoli a cambiare il dispositivo al più presto, quindi è in corso questa campagna di ritiro. Naturalmente la percentuale di soggetti a rischio è minima, l'1%, parliamo di 65.000 macchinette sugli 8 milioni in circolazione. Oggi però cerchiamo di capire come fare per sostituirlo, per essere sicuri di non correre rischi e come comportarci se abbiamo notato qualcosa di anomalo. Allora, se siete tra questa platea di interessati a questa campagna di richiamo e se volete avere qualche informazione in più, chiamateci all'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Noi oggi parleremo di tutto questo con il collega del Sole 24 Ore che si è occupato di questa vicenda, Maurizio Caprino, che saluto. Maurizio, ciao, bentornato a Salva Danaio, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. E poi ci ha concesso la sua disponibilità molto gentilmente anche l'amministratore delegato di Telepass, il dottor Ugo De Carolis, che saluto, buongiorno e benvenuto alla nostra trasmissione. Dottor De Carolis, ci sente? Non l'abbiamo ancora in linea, ma lo avremo sicuramente fra qualche istante. Oltre alla modalità di intervento in diretta con il numero verde, come sapete avete anche tutta un'altra serie di opportunità per interagire con noi. Potete scriverci al 349-238-6666, potete inviarci delle mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it oppure potete andare anche a scrivere sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Eravamo in grande attesa di questa giornata perché dalla Germania è arrivata l'attesa decisione della Corte Costituzionale tedesca, che ha detto sì al fondo Salva Stati, anche se ha limitato la capacità finanziaria e la disponibilità finanziaria della Germania, 190 miliardi di euro, ma il mercato si è accontentato. Dopo una partenza un po' più interlocutoria, ha ripreso adesso a correre, anche se in questo momento esatto siamo leggermente al di sotto dei massimi di seduta toccati in mattinata. Per Milano il rialzo è dello 0,97%, per Parigi è dello 0,67%, per Francoforte più 0,8%, la Spagna più 0,96%. Abbiamo un certo slancio anche dell'euro sul dollaro, che ha addirittura raggiunto e superato abbondantemente la soglia di 1,29 rapporto di cambio in questo momento. Molto bene anche lo spread fra BTP e Bund, che ha ritrovato la via della discesa e stamattina è arrivata addirittura a 339 punti base, adesso è a 342. C'era anche un appuntamento per il Tesoro italiano molto atteso. Il Tesoro italiano doveva collocare questa mattina un bel pacchetto di titoli, di bot trimestrali, un titolo che peraltro non veniva offerto in asta dallo scorso maggio, è stato invece collocato stamattina per l'intero importo offerto, 3 miliardi, con un rendimento lordo pari allo 0,70%. La domanda è stata più che doppia rispetto all'offerta. Il bot annuale invece, offerto per 9 miliardi, ha totalizzato richieste per 14,8 miliardi di euro ed è stato collocato con un rendimento lordo pari all'1,69%. Abbiamo avuto quindi sul rendimento un calo di oltre un punto percentuale rispetto all'asta precedente e siamo ai minimi dallo scorso marzo, per cui davvero un grande sospiro di sollievo anche per le casse dello Stato sono tutte buone notizie, speriamo che riusciremo a mantenerle. Vedremo oggi anche Wall Street come risponderà a tutto quello che sta succedendo in Europa. Wall Street che però oggi ha anche un suo appuntamento, inizia il Federal Open Market Committee, la riunione del braccio operativo della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana. Anche da là aspettiamo nuove misure di stimolo monetario per sostenere l'economia. L'economia ne ha bisogno, lo ha fatto capire anche venerdì scorso quando dagli Stati Uniti è stato diffuso il dato sulla disoccupazione americana, che è ancora molto alta. Una bella problematica anche per la campagna elettorale in corso e per tutti i candidati, Barack Obama compreso. Allora, direi che magari facciamo solamente un rapido giro di migliori titoli di Piazza Affari. Ancora in corsa Monte dei Paschi più 5, Enel più 3, STM più 2,81, Unicredit più 2,80, Mediobanca più 2,44%, mentre in discesa abbiamo Lottomatica meno 2,48, Buzzi Unicem meno 1,52, Diasorin meno 1,18%. Questa era la borsa. Volevo salutare, se ci ha raggiunto telefonicamente, il dottor Ugo De Carolis, amministratore delegato di Telepass. Dottor De Carolis, c'è con noi? Ci sono, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, siamo veramente ai capi opposti della nostra penisola. Oggi noi siamo a Bari, abbiamo i nostri studi invece di Milano che ci seguono, lei è a Roma, se non sbaglio, sì, infatti, per cui abbiamo questi punti appunto di riferimento sparpagliati un po' ovunque. Detto questo, andiamo immediatamente al tema di oggi. Come avete sentito, ve l'ho presentato all'inizio, c'è in corso una campagna di ritiro di alcuni apparecchi Telepass, sentiamo che cosa è successo, poi entreremo naturalmente nel dettaglio di questa vicenda. Sono circa 8 milioni gli apparecchi Telepass installati a bordo delle auto degli italiani. Un accessorio essenziale per chi lavora quotidianamente con l'auto percorrendo lunghe tratte, ma al tempo stesso una comodità a cui non rinunciano tanti automobilisti che frequentano saltuariamente l'autostrada. Su 65.000 di queste macchinette, però, si sono recentemente diffuse notizie molto preoccupanti. Si tratterebbe di un lotto di apparecchi potenzialmente pericolosi, le cui batterie potrebbero risultare difettose a causa della vetustà e del basso livello di carica, si legge sul sito di Telepass. Pertanto, se non sostituite, potrebbero comportare un'emissione di liquido. Le batterie incriminate sono quelle al litio e la perdita di liquido rischia di provocare piccole esplosioni, capaci però di causare danni al veicolo e, soprattutto, di provocare pericolose distrazioni a chi è alla guida. Finora i casi di esplosione registrati sono 7. Nelle scorse settimane sono stati recapitati degli avvisi via posta ai titolari degli apparecchi riconducibili al lotto difettoso e in seguito l'informazione è comparsa anche online con la possibilità di verificare sul sito internet se si rientra tra i clienti a rischio. Naturalmente l'indicazione in questi casi è quella di provvedere immediatamente alla sostituzione del Telepass recandosi al più presto in uno dei punti blu. Non è mancata qualche polemica, in primo luogo, per la mancata pubblicazione della notizia sul web e nei principali canali di informazione. Secondo alcuni, poi, il problema sarebbe noto da tempo all'azienda, che avrebbe invitato già nel settembre 2011 i clienti a sostituire il dispositivo. Ma da Telepass smentiscono. Quell'avviso metteva solo in guardia sulla possibilità che le batterie stessero per scaricarsi. In ogni caso, se avete installato il Telepass circa 7 anni fa, lo avete usato raramente e per una coincidenza nel frattempo avete anche cambiato indirizzo postale, vi conviene verificare con attenzione di non essere tra i protagonisti di questa sfortunata vicenda. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Prima di chiarire tutta la posizione di Telepass su questa vicenda, volevo andare subito con Maurizio Caprino anche alla vicenda che ha reso di dominio pubblico, no? Quello che stava accadendo a questo gruppo di strumenti venduti 7 anni fa. Il caso che ha reso possibile conoscere appunto quello che stava accadendo si è verificato a Ferrara, Maurizio, nel luglio del 2010 e malcapitata protagonista è stata una signora che poi, per la verità, in quel momento, se non mi ricordo male, non era neanche alla guida della sua auto, ma la sua auto era tranquillamente parcheggiata, però ecco, l'apparecchietto è scoppiato ugualmente. Ce lo vuoi ricordare? Sì, esatto, è successo proprio quello che abbiamo poi scoperto a distanza di 2 anni essere il problema, cioè questa esplosione che non è un'esplosione di una bomba, ecco, intendiamoci subito, è però un'esplosione che fa il suo rumore. Chi l'ha udita riferisce di una cosa simile allo scoppio di un airbag che è abbastanza per spaventare un conducente. Tenete conto che in alcuni corsi di guida sicura viene proprio simulata l'esplosione di un airbag proprio per far vedere alla gente come ci si può spaventare e quindi prepararli a un'eventualità di questo tipo. Quindi comunque è una cosa limitata sotto il punto di vista, dal punto di vista della potenza esplosiva, ma da non sottovalutare dal punto di vista invece dello spavento. E noi sappiamo che le persone appunto non sono preparate, cioè se già io li ho visti di persona, si spaventano durante i corsi di guida sicura e gli era già stato spiegato che cari signori, fra 10 secondi sentirete uno scoppio, figurarsi quando succede senza preavviso. Ma voglio vederlo Maurizio, io faccio molti viaggi in autostrada, sono teoricamente solo spaventata l'idea che mi scoppi una gomma, quindi figuriamoci un piccolo scoppio da questo apparecchietto che sta lì magari fissato proprio di fronte a noi, quindi è assolutamente ragionevole, ma se anche fossimo dei grandi temerari e coraggiosi, in ogni caso è sempre bene appunto che questa situazione non si riverifichi e replichi di nuovo. Dopo la signora di Ferrara, so che al Sole 24 Ore appunto ti sono state segnalate altre circostanze simili. Sì, sono successe altre circostanze simili, risulterebbe anche una circostanza di questo tipo presso un'azienda che effettua la rigenerazione degli apparecchi, perché in sostanza poi gli apparecchi che hanno le pile scariche vengono appunto ritirati di routine da Telepass e affidati ad aziende che cambiano appunto le batterie. Sono aziende specializzate dove ci sono anche tecnici specializzati, quindi in questo caso non ci sono particolari problemi, però insomma questo conferma che la questione esiste, si pone, e a mio giudizio è bene parlarne proprio perché, come accennavi tu, in questa società molto mobile è difficile essere raggiunti ai propri indirizzi. Tu stessa dicevi che tu parli da Bari, il dottor De Carlo ci parla da Roma, io in questo momento mi trovo a Taranto e oggettivamente anch'io faccio fatica a tenere insieme tutte le mie carte fra Bancomat, Telepass e tutte le altre tessere che ho, insomma, e con ogni trasferimento è un guaio, insomma. Certo. Quindi, allora, volevo carte arretrate, insomma. Infatti. Allora, volevo naturalmente anche adesso tranquillizzare Ugo De Carolis, non è che vogliamo fare una campagna terroristica questa mattina, ma solamente dare un'informazione di servizio ai nostri ascoltatori. Peraltro, ricordando anche che le campagne di richiamo sono molto frequenti da parte di aziende di ogni tipo, quelle automobilistiche, a quelle automobilistiche capita spesso, mi vengono in mente anche le campagne di richiamo di certi articoli messi in commercio da parte, non so, per esempio dell'IKEA, quindi non è che sia una pratica, una circostanza capitata solo a Telepass per questi apparecchi malfunzionanti, risalenti per altri ad una distribuzione commerciale di 7 anni fa. Dottor De Carolis, però le devo far rispondere al fatto che qualcuno dice che non abbiate informato tempestivamente tutta la platea dei potenzialmente interessati a questo disagio. Buongiorno. Ma guardi, la situazione è una situazione abbastanza comune in tutte le batterie al litio. Se si va su internet e si cerca informazioni di questo genere, si trovano telefonini che hanno problemi di questo genere, di fuoriuscita dei liquidi. A me è successo diverse volte di avere la batteria di un telecomando. Il telecomando, infatti, glielo volevo dire io, esatto, sì, si capita. Improvvisamente si trova dilatata e con il liquido fuori che sporca. Di fatto il fenomeno è questo qua. Ci sono dei casi, anche documentati su internet, eccetera, in cui questa reazione può essere più violenta e quindi può uscire anche del gas e del liquido e emettere del calore. Allora, questo per dire che problemi di questo genere su 8 milioni di apparati ce ne sono stati in passato e ce ne saranno sempre, cioè apparati che ci tornano con del liquido fuoriuscito ce ne sono stati. Quindi il caso di Ferrara, non mi ricordo di che anno era, del 2011? 2010, è stato sicuramente uno di questi. Quello che abbiamo notato però è che dall'inizio del 2012, e probabilmente in corrispondenza al fatto che questi apparati di questo lotto sono ormai molto vecchi e quindi arrivati tutti quanti alla fine della carica, ce n'è stato un gruppetto, quindi abbiamo individuato un numero, tra l'altro non sono 7 ma sono 12, avevano tutti quanti le batterie dello stesso lotto. Quindi questo ci ha permesso di individuare un lotto molto ben preciso e fare delle indagini. Le indagini ci hanno confermato che di fatto questi episodi rientrano nei tassi fisiologici dei difetti delle batterie, però da questo punto di vista per le motivazioni che avete detto, ripeto, finora non è mai successo niente, nessuno si è fatto male, anzi praticamente tutti i casi sono avvenuti senza che qualcuno guidasse, per fortuna, ma a scanso di equivoci abbiamo deciso di richiamarli tutti quanti. Quindi certamente, questa ecco, è la situazione. Allora come vi siete attivati per la campagna di richiamo, dottor De Carolis? Parte... Noi abbiamo fatto, ecco, abbiamo mandato... C'è la notizia sul vostro sito, però lì significa andarla a recuperare e capitarci casualmente, bisognerebbe raggiungere teoricamente direttamente tutti i proprietari di questi strumenti. Allora, come noi abbiamo mandato, ci sono vari casi perché a seconda dei dati che abbiamo a disposizione dei nostri clienti, noi abbiamo mandato... Una raccomandata con ricevuta di ritorno con una comunicazione specifica su questa campagna, quindi informando il cliente che il suo apparato fa parte di un lotto che ha una batteria tra le quali è potenzialmente difettosa e quindi chiediamo di restituire. Poi a tutti i clienti che hanno l'indirizzo che ci hanno lasciato l'indirizzo internet abbiamo mandato un'email analoga, a tutti i clienti che hanno lasciato il cellulare abbiamo mandato un SMS e abbiamo messo la comunicazione sul sito internet e tutti i clienti in questo momento tutti i clienti che ancora non hanno restituito li stiamo e che hanno un numero di telefono fisso, un numero di cellulare, li stiamo chiamando uno a uno. Quindi da questo punto di vista abbiamo fatto una campagna molto puntuale. Io mi ero già sentito il dottor Caprino un po' di tempo fa quando lui ha fatto l'articolo sul giornale e poi sul blog il dottor Caprino giustamente mi faceva notare che non avevamo ancora messo comunicazione ufficiale sul sito. Il motivo è che noi con i clienti per motivi di fatturazione eccetera ci parliamo tutti i mesi. Dimenticavo, quando si entra nella parte privata del sito, quindi la parte dove il cliente va a vedersi ogni mese, ogni tre mesi la fattura o va per cambiare le targhe, il suo estratto conto, apparato, certo, la sua posizione, c'è un alert che esce fuori, quindi un pop-up dal computer che avverte il cliente che deve restituire l'apparato. Quindi operazioni ne abbiamo fatte, ritengo abbastanza importanti, sempre appunto per essere sicuri al più possibile che questi clienti vengano raggiunti. Certo, dottor De Carolis, solo per rispondere ad una domanda di un ascoltatore, poi ci ritorneremo ancora più dettagliatamente nella seconda parte del nostro programma, tra un minuto devo ridare la linea alla regia. Se dovessimo essere molto chiari sul lotto interessato dal cambio di Telepass, ci chiede Fabrizio, perché specifica proprio l'aspetto di cui stavamo parlando poco fa, hanno un mio vecchio indirizzo, potrebbero aver inviato la lettera lì. Allora, quello che consiglio, noi se abbiamo il suo vecchio indirizzo sicuramente abbiamo mandato la lettera lì, quello che consiglio a tutti i clienti, nel dubbio di andare nel sito Telepass, entrare nella parte privata, quindi entrare con la propria user ID e password e vedere se c'è un messaggio di allarme. Se c'è il messaggio di allarme sostituite immediatamente l'apparato, se non c'è il messaggio nessun problema. Benissimo, poi andiamo anche alle indicazioni per fare appunto la sostituzione, se naturalmente adesso va fatta necessariamente, se abbiamo uno di questi apparecchi problematici a rischio scoppio, ma nel caso appunto se per altri problemi dovessimo essere nella necessità di cambiarlo, che cosa dobbiamo fare, appunto qual è l'assistenza che l'azienda ci offre? Ritrovati in diretta da Salva Danaio, buona giornata a tutti. Salva Danaio in diretta da Bari, dalla Fiera del Levante. Oggi ci occupiamo di un caso che ha occupato abbastanza sporadicamente le pagine dei giornali, ma ci è sembrato utile invece enfatizzarlo un po', perché si tratta di una questione non solo economica, ma anche una questione che attiene alla sicurezza alla guida di molte persone. Parliamo di una serie di lettere di richiamo che la società Telepass sta inviando a molti propri clienti, perché esiste in circolazione un lotto problematico a rischio scoppio, visto che l'alimentazione appunto di questi strumenti è fatta con delle batterie al litio che erano appunto allegate agli apparecchi qualche anno fa e adesso sono a rischio scoppio. C'è stato un caso di Ferrara che per la verità si è verificato nel luglio del 2010 e poi altri casi segnalati al collega Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, tutta una serie di circostanze che ha portato appunto Telepass ad attivarsi con questa campagna di richiamo. Quindi c'è adesso una grande operazione di sollecitazione da parte dei potenziali clienti che hanno in possesso questi strumenti e noi questa mattina insieme a Maurizio Caprino stiamo parlando anche con l'amministratore delegato della società Ugo De Carolis. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori. Tra l'altro Maurizio Caprino, tu sul tuo blog avevi anche, dopo che Telepass ha inserito sul proprio sito internet la notizia di questa campagna di ritiro, hai anche specificato ai clienti che volessero collegarsi al sito per verificare appunto se la loro posizione teoricamente è a rischio, come si fa a scoprirlo? C'è questo triangolino giallo che appare nell'area riservata ai clienti, quindi come si fa? Sì, è un segnale di pericolo sostanzialmente. Voi dovete fare la procedura che mi auguro facciate abitualmente quando vi cioè quindi la procedura di connettersi al sito Telepass, c'è un'area riservata, quindi ognuno di noi ha un nome utente e una password. Una volta che si apre questa parte, si va nei tuoi contratti, appare subito questo triangolino che appunto mette in guardia. Ora il problema è che in mezzo a 8 milioni di persone che hanno il Telepass e in mezzo a questi 65.000 possessori di apparati, verosimilmente c'è anche chi il computer non lo usa, magari ci sono degli anziani, anche gente che ha cambiato residenza. Quindi io torno a ripetere che è necessario, proprio come in tutte le campagne di richiamo dai frullatori alle automobili, voglio dire, dare l'informazione sul maggior numero di canali possibile. E infatti lo abbiamo fatto anche dalla radio. L'abbiamo fatto anche dalla radio, quindi. Sì, ecco, sotto questo profilo mi spiace constatare che fin quando non ce ne siamo occupati noi del giornale, diciamo erano partite soltanto delle lettere, non mi risulta che ci fossero informazioni sul sito internet di telepass.it. Altrettanto chiaramente devo dire che comunque non credo che sia un problema di mentalità della singola azienda. Purtroppo questo è un problema, diciamo, di civiltà, in particolare italiana. Diciamo, se vogliamo dirla tutta, ce l'abbiamo anche noi giornalisti. Cioè, mentre nel mondo anglosassone si fanno rettifiche in maniera ordinaria, perché si sa che chi lavora sbaglia, e in Italia c'è sempre molta ritrosia ad ammettere di aver sbagliato, quindi non mi stupisce che anche Telepass abbia fatto un ragionamento di questo tipo. Adesso ce lo faremo spiegare da Ugo De Carolis. Detto questo, adesso cerchiamo di capire come far a raggiungere singolarmente ognuna di queste 65.000 persone. Dottor De Carolis, ha sentito Caprino, è veramente arrabbiato con voi, adesso mi passi il termine. Naturalmente, detto questo, la questione della sicurezza alla guida è fondamentale, per cui mi chiedo come farete ad individuare il successo del risultato della campagna di arrivo ai clienti e di conseguenza anche di ritiro di questi mezzi. Conteggerete tutte 65.000 risposte, come farete? Il successo si misura dal numero di apparati che rientrano. Ad oggi ne sono rientrati più di 20.000 di questi 65.000, per cui un terzo. Sì, un terzo è già rientrato in meno di un mese, per cui la campagna in questo momento sta funzionando. Come giustamente ha fatto notare il dottor Carrino, era opportuno mettere anche sul sito l'informativa, cosa che abbiamo fatto inizialmente. Ne avevamo parlato anche al telefono, il motivo era legato al fatto che comunque noi con questi clienti, perlomeno per le fatture, ci parliamo, per cui i clienti sono clienti che ci pagano regolarmente, quindi una comunicazione normale c'è. Ripeto quello che abbiamo fatto, di fatto stiamo mandando email e stiamo telefonando ad uno. Il ricambio, dottor De Carolis, è gratuito naturalmente, state ritirando gratuitamente i vecchi strumenti per poi ridarne dei nuovi ai clienti? Il ricambio è gratuito, come è gratuito normale il ricambio di Telepass con batterie scariche, quindi il processo è un normalissimo processo di sostituzione dell'apparato con batterie scariche. È sufficiente presentarsi al punto blu con un documento di identità e si sostituisce l'apparato in tempo reale, quindi è un'operazione di 3 minuti, si entra con l'apparato da sostituire e si esce con l'apparato da sostituire, questo in generale, anche con le batterie scariche, è maggior ragione per questi qui. Allora, a proposito di batterie scariche, dottor De Carolis, poi ritorniamo su questa campagna. Direi di cominciare a coinvolgere anche i nostri ascoltatori, gli amici che ci seguono da casa e che ci chiamano all'800240024. A prescindere dalle vecchie batterie al litio, le batterie nuove, come si fa a capire quando cominciano un po' a tentennare? Gianpaolo da Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno, e da Capalbio, provincia di Grosseto. Beato lei, Gianpaolo. È proprio questa la mia richiesta, cioè non è che in un certo momento con le batterie scariche non mi funziona più il Telepass, mi trovo davanti alla sbarra che non si apre, c'è un preavviso o qualcosa? Certo, una piccola spia magari che funziona, come per esempio capita per tanti altri elettrodomestici che dal verde passano all'arancio, magari iniziano un po' a dare un'indicazione preventiva che la batteria si sta scaricando per poi scaricarsi direttamente, andare in rosso. Dottor De Carolis, allora intanto che autonomia hanno appunto le batterie del Telepass? Guardi, il telepass chiaramente dipende dall'utilizzo, ma ha una durata che va dai 5 ai 7 anni. Ecco perché diciamo che questi apparati, questi 65.000, sono tutti quanti a carica residuo molto bassa, perché sono arrivati alla fine della loro vita a 7 anni. L'apparato, tutti quelli che ce l'hanno lo sanno, quando si entra nella pista autostradale emette un suono. Nel momento in cui il livello di carica delle batterie raggiunge un livello per cui è opportuno, si stanno scaricando, i suoni vengono fatti tre suoni di seguito. Questo indica che la batteria si sta scaricando. C'è ancora dell'autonomia, ma è il momento di sostituirli con la procedura che abbiamo detto prima. Si va al punto blu e si sostituisce l'apparato. Si sostituisce tutto l'apparato, quindi non esiste come apparato. Per il telecomando un'altra cosa, insomma, la possibilità di cambiare solo la batteria interna. Non prevediamo la sostituzione della batteria, le batterie sono saldate all'interno dell'apparato e quindi l'operazione di sostituzione delle batterie è un'operazione che avviene in laboratorio, avviene in un processo industriale, quindi noi l'apparato lo sostituiamo. Quindi insomma abbiamo una variazione del piccolo allarme che emette il telefono. Ci sono tre suoni anziché uno. L'altra Benissimo, cosa che quindi... volevo dire sì. rispetto alla preoccupazione del cliente che ha chiamato è che se l'apparato non funziona in effetti la sbarra non si alza, e questo è il motivo per cui c'è un limite di 30 all'ora molto ben segnalato e ci sono, appunto, nel caso in cui l'apparato non funzioni, che può avvenire per batteria scarica ma può avvenire anche perché molto, molto spesso succede perché l'automobilista non posiziona correttamente l'apparato sul parabrezza, c'è gente che lo tiene nel cruscotto, dentro il cassetto, cose di questo genere. Sì, io ho degli amici, le dico anche la verità, che lo estraggono proprio al momento 5 secondi prima di passare al casello e dopodiché lo si rimette nel cruscotto, ecco. Non è un comportamento corretto quello? No, non è un comportamento corretto, l'apparato va tenuto attaccato al cruscotto perché il primo segnale del telepass viene captato ben prima dai nostri apparati in pista, ben prima che arrivi il suono. Quindi il suono è la conferma che tutti i dati sono a posto, perché i nostri sistemi devono captare il telepass e vedere se quel telepass è per caso è regolare o se è di qualche cliente che il contratto è scaduto o cose di questo genere. Per cui è tirato fuori all'ultimo momento è un qualche cosa che è una procedura che in qualche caso può comportare un'errata lettura e quindi una nuova apertura della sbarra. Per non parlare poi anche della distrazione alla guida, che diventa anche un atteggiamento rischioso, esattamente come avere un apparecchio che non funziona bene, che magari rischia di scoppiare, per cui voglio dire, se lo compriamo per la nostra comodità, non capisco perché bisogna tenerlo nel cassetto fino a 2 secondi prima di passare sotto il casello. Quindi, dottor De Carolis, per avere tutto l'ABC del corretto utilizzo del telepass, qual è la postazione esatta in cui collocarlo sul parabrezza? La postazione esatta è vicino allo specchietto. Soprattutto in quelle automobili che hanno i vetri schermati, c'è una parte nera vicino allo specchietto, il telepass va messo nella parte nera, non nella parte trasparente, perché la parte nera è quella non schermata da cui le microonde di segnale passano più facilmente. E comunque, ottimo. Quindi parabrezza vicino allo specchietto e in caso di non funzionamento c'è tutto il tempo, se si rispettano i limiti, a fermarsi, perché si viene avvertiti sia dal suono dal telepass che non suona che dal semaforo rosso che si accende. Adesso andremo anche naturalmente a tutti gli aspetti anche economici relativi all'utilizzo del telepass. Prima Simone dalla provincia di Venezia all'800240024. Simone, buona giornata anche a lei. Sì, buongiorno. Senta, io volevo raccontare la mia esperienza. A me è stato bloccato l'apparato telepass, non so se l'avete già detto, ma mi sono appena collegato, quindi non l'ho sentito. Me l'hanno bloccato durante un viaggio tra Padova e Venezia, sostanzialmente. Sono entrato a Padova con il telepass, uscendo a Venezia la sbarra non si è aperta e è uscito un suono diverso, ecco. Sono andato al punto blu e l'impiegato mi ha detto che c'era stato un richiamo e che mi avrebbe dovuto sostituire l'apparato. Allora sì, è il tema di cui abbiamo parlato proprio all'inizio della trasmissione, il tema è proprio questo, cioè in corso una campagna di ritiro di apparecchi telepass da parte della società, appunto, perché sono apparecchi a rischio scoppio. E allora Simone, probabilmente lei è uno degli interessati. Quando l'ho acquistato, da quanto tempo ce l'ha? 6-7 anni, prima, appunto, ho sentito che dicevate 7 anni, sì, più o meno in quel periodo là. Potrebbe essere uno dei suoi. Tra l'altro, dottor De Carolis, torno a lei, quindi giustamente l'apparecchio ancora funzionava, però essendo uno dei 65.000 oggetto della campagna richiamo, a lui praticamente la situazione si è sistemata in questa maniera, non è dovuto lui in prima persona andare in un punto blu per fare il cambio, addirittura a lui praticamente gli si è modificato immediatamente l'allarme. No, se c'è stato questo allarme era uno dei casi di batteria scarica, probabilmente poi si è scoperto casualmente che era anche dell'osso e quindi è stato ritirato. Quindi va bene, insomma, è finito a Simone, diciamo, gli si è manifestata la circostanza tale per cui, pur non volendo, ha fatto il ricambio e ha saputo di essere uno dei protagonisti della campagna di richiamo, appunto, involontariamente. 349-238-6666, il numero per i messaggi anche degli ascoltatori, oltre che naturalmente il numero verde per chiamarci. Maurizio Caprino, allora, abbiamo detto che ci sono 8 milioni di italiani che utilizzano il Telepass nel nostro paese, quindi immaginate anche che platea vasta fa uso appunto di questo strumento, che è sicuramente molto utile, che ci impedisce di fare tutte le file al casello se si vuole pagare in contanti. Le file sono un po' meno lunghe se invece si utilizza lo strumento, appunto, la moneta elettronica. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buona giornata da Deborah Rosciani, l'ultima parte della nostra trasmissione dedicata all'utilizzo del Telepass e a questa campagna di richiamo che la società sta effettuando per un gruppo di apparecchi a rischio scoppio, apparecchi distribuiti, diciamo, mediamente circa 6-7 anni fa, utilizzano una batteria al litio che rischia di scoppiare. Qualcuno è già scoppiato, è capitato a qualche malcapitato appunto guidatore, ad una signora di Ferrara nel luglio del 2010, poi altri casi, pochissimi per fortuna, ma questo ha indotto l'azienda appunto a fare questa campagna, ribadisco, di richiamo. Qualche ascoltatore dice l'ha già fatto, ci ha messo davvero 3 minuti, al punto blu qualcun altro invece si lamenta che ha dovuto fare una fila di 1 ora e 20, sarà stata una brutta giornata, lo diciamo appunto a questo ascoltatore. Detto ciò, sono 8 milioni gli italiani che utilizzano questo strumento, Maurizio Caprino, questo apparecchio, per essere un po' più veloci al casello autostradale. Sì, sono parecchi, devo dire, dovrebbero essere ancora di più a considerare, a vedere le code che ci sono soprattutto durante gli esodi estivi, sarebbe molto meglio appunto se più persone avessero questa possibilità, anzi scegliessero questa possibilità, perché è una scelta libera e personale. Tra l'altro sistemi di questo tipo potrebbe essere spinti anche nel futuro, proprio da come cambieranno le normative. Cioè, vi ricordo che nel 2010 è stata introdotta questa controversa norma che prevede il pedaggiamento, quindi il fatto di dover pagare anche le autostrade gratuite, quelle fondamentalmente gestite dall'ANAS, tipo il raccordo anulare di Roma, la Roma Fiumicino, la Salerno Reggio Calabria e le autostrade siciliane, buona parte delle autostrade siciliane. E questo sistema, questo pedaggiamento dovrebbe avvenire proprio con sistemi che prevedono soltanto il cosiddetto pagamento free flow, cioè niente caselli e un sistema di rilevatori, un po' come il tutor, analogamente al tutor, vedono che percorso facciamo e poi ci addebitano il conto. Quindi chi ha un Telepass in questo caso sarebbe favorito, perché pagherebbe già direttamente sul suo conto bancario, mentre gli altri si vedrebbero recapitare il conto a casa e con non poche complicazioni sia di pagamento sia invece anche proprio di recupero del credito da parte della società autostradale. Quindi questo è un sistema che andrà messo a punto e in vista di questo sistema è proprio consigliabile che più persone possibile, ancora più di oggi, vadano a scegliere questi sistemi che consentono un pagamento automatico. Detto questo, però, devo dire appunto, confermo che 8 milioni sono tanti, e proprio perché sono tanti volevo fare una piccola precisazione sul discorso del parabrezza, ossia è vero che molti parabrezza sono schermati, è vero che nella maggior parte dei parabrezza schermati basta posizionare l'apparecchio nella parte dove c'è la griglia nera, però è altrettanto vero che siccome sono tanti i casi possibili, ci sono anche delle vetture su cui è il contrario, cioè non va messo l'apparecchio, non va posizionato sulla griglia nera ma sulla parte di vetro normale. Quindi bisogna far riferimento al libretto di uso e manutenzione della singola vettura. Autovettura. Purtroppo non c'è uno standard per tutti, ecco. Dottor De Carolis, quanto costa utilizzare il Telepass ad un utente medio, diciamo, che pratica e che frequenta l'autostrada magari non abitualmente ma frequentemente, lo fa per le vacanze, comunque un utilizzo medio di un'automobile? Non parlerei di utilizzo medio, perché il Telepass, il costo è uguale per tutti e costa 1,25 € al mese, quindi il costo di un caffè, diciamo. Quindi con 1,25 € al mese c'è l'apparato in automobile, dopodiché il cliente paga il pedaggio relativo all'utilizzo che ne fa. Quindi paga esattamente quello che avrebbe pagato utilizzando l'autostrada in quella circostanza. Allora, sentiamo qualche... Sì, se no, no c'è qualche altra domanda. Sì. Una cosa che volevo aggiungere semplicemente è che, a differenza di quanto molti pensino, oggi il telepass può essere richiesto e ottenuto immediatamente anche non solo nei punti blu, ma anche presso la maggior parte delle banche, quindi direttamente al proprio sportello bancario in moltissime... in moltissimi casi vi viene dato l'apparecchio direttamente o negli uffici postali, quindi è anche facile l'ottenimento, oppure via internet si può ordinare e arriva per posta. Benissimo, andiamo ad Alberto da Milano rapidamente. Alberto, perché è davvero pochissimi minuti prima della chiusura. Sì, buongiorno Alberto. Volevo dire solo questo, intanto la prima cosa un plauso, io vivo in Francia da 7 anni, Il telepass è qualcosa di favoloso confronto al telepeage che non ha il passaggio rapido a 30 all'ora, ci si deve fermare alla barriera, insomma un sacco di problemi hanno, sono molto più indietro di noi, questo è una cosa che dico a onor del vero. Un'altra cosa però mi ha fatto un po' vergognare, quando ho cambiato macchina sono andato a un punto blu dicendo io ho bisogno dell'adesivo per riattaccare il telepass e mi hanno detto lei deve pagare un euro. Allora, per avere un adesivo, mi sembra, non so quante migliaia siano quelli che loro devono dare in occasioni di questo tipo, però mi sembra che sia veramente una stupidaggine. Alberto, sono un po' vergognato. Alberto, grazie. Adesso andiamo a De Carolis, magari gli metto insieme anche un'altra domanda, quella di Alfredo di Monza. Alfredo, buongiorno. Buongiorno. Abbassi la radio, per carità, perché sento 12.000 eco, tra che sono qua a Bari, non ho la radio accesa. Ah, vabbè, allora era un altro problema. Senta, il mio caso è questo, il mio contratto risale al 2004, quindi il mio apparecchio è vecchio di almeno 8 anni. Ora io un anno fa sono andato presso un punto blu per la sostituzione e mi è stato detto ma no, non è il caso, eccetera. Ma insomma, a questo punto a me pare che sia proprio il caso che mi si sostituisca l'apparecchio, non le pare, dopo 8 anni? Sentiamo un po' che cosa ci dice l'amministratore delegato. Due domande per lei, dottor De Carolis. Un euro per un adesivo per attaccare l'apparecchio al parabrezza? Sì, un euro per due adesivi che diamo per attaccare il telepass al parabrezza. Mi rendo conto, ogni tanto ci arrivano dei clienti che si lamentano, la realtà è che questi adesivi sono molto particolari, hanno una tenuta fortissima e quindi hanno un costo di acquisto elevato, non è quello su cui facciamo il business, per essere chiari. Stiamo lavorando per cercare di ridurre i costi e quindi spero che presto l'ascoltatore avrà una sorpresa positiva. Benissimo. Alfredo invece dice, io l'apparecchio da 8 anni, vorrei cambiarlo perché così temo che magari le batterie si possano scaricare, allora prima di sentire il suono che mi dice le batterie si stanno scaricando, ritengo che sia giunto a naturale suo destino l'apparecchio. Punto Blu può dire no, non cambiarlo, anche se ce l'ha da così tanto tempo? Il Punto Blu ha la possibilità, con un apparecchio che ha il Punto Blu, di verificare il livello di carica. Per cui se ha risposto in questa maniera vuol dire che questo apparato probabilmente aveva un livello di carica ancora elevato e quindi c'era ancora, per essere chiari, non era un qualche cosa che si sarebbe scaricato dopo qualche mese, ma evidentemente il livello di carica era molto elevato. Quindi è questo il motivo per cui è stato consigliato al cliente di non sostituirlo, perché ancora il telepass era perfettamente funzionante. Benissimo, noi stiamo andando verso la chiusura della trasmissione. Dottor De Carolis, le concedo un ultimo minuto finale per di nuovo ritornare su questa campagna di richiamo, su questi apparecchi a rischio. Un'ultima sollecitazione ai nostri ascoltatori che magari hanno perso la prima parte della trasmissione e che potrebbero essere potenzialmente interessati a questo problema, appunto come far suonare il piccolo allarme in testa. Allora, il suggerimento per tutti i radioascoltatori è quello di andare sul sito internet, entrare con la propria user ID e password e verificare se il proprio apparato, se esce un messaggio di allarme con un triangolino, il segnale di pericolo che suggerisce di andare a sostituire il telepass. Stiamo anche lavorando e dovrebbe essere pronto dall'inizio della prossima settimana per poter fare questo controllo anche senza dover mettere user ID e password. In questo caso sarà necessario avere il codice fiscale del proprietario del contratto e il numero dell'apparato, però probabilmente a seconda di cosa una persona ritiene più facile può andarla a verificare. Se non, molto non, bene, non, sì. Se non ci sono pericoli di questo genere, auguro buon viaggio a tutti i nostri clienti. grazie anche a lei per essere stato con noi questa mattina. Grazie a Ugo De Carolis, amministratore delegato di Telepass, e nostro collega Maurizio Caprino. Salva Danaio termina qui, noi ci risentiamo anche domani da Bari, dalla Fiera del Levante. A Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.